Tu sei un ingenuo. Tu credi che se un uomo ha un'idea nuova, geniale, abbia anche il dovere di divulgarla. Ma tu sei un ingenuo. Prima di tutto perché credi ancora alle idee geniali. Ma quel che è peggio è che credi al potere benefico dell'espansione della cultura. No. No, al momento ogni uomo deve avere un suo luogo del pensiero, protetto e silenzioso. La cultura deve essere segreta. Non esiste alcuna idea importante di cui la stupidità non abbia saputo servirsi. Sì, tu mi dirai che la divulgazione è un dovere civile e che fa evolvere il livello della gente. Ma non ti rendi conto di essere ancora prigioniero di un residuo populista e francamente anche un po' patetico. Purtroppo, oggi appena un'idea nuova esce da una stanza, diventa subito merce, merce di scambio, roba da supermercato. La gente se la trova lì e se la spalma sul pane, come la Nutella. No, no, la cultura è delicata ed anche un po' permalosa. E ci resta male se non si sente amata davvero, se le viene il sospetto di non essere un bisogno autentico. La cultura è come una luce che quando si espande troppo perde luminosità. Il frastuono della cattiva divulgazione la affievolisce. Soltanto il silenzio ne salva l'intensità. Fa un certo effetto non sapere bene da dove nasce ogni tua reazione, e tu stai vivendo senza sapere mai nel tuo profondo quello che sei, quello che sei. Che abbiamo dentro, che vivono in ogni uomo, nascosti nell'inconscio, sono un atavico richiamo. I mostri che abbiamo dentro, che vagano in ogni mente, sono i nostri oscuri istinti e inevitabilmente dobbiamo farci i conti. I mostri che abbiamo dentro, silenziosi e insinuanti, sono il gene egoista che senza complimenti domina e conquista. I mostri che abbiamo dentro ci spingono alla violenza, che quasi per simbiosi si è incollata la nostra esistenza. La nostra vita civile, la nostra idea di giustizia e uguaglianza, la convivenza sociale è minacciata dai mostri che sono la nostra sostanza. I mostri che abbiamo dentro, i mostri che abbiamo dentro, i mostri che abbiamo dentro, i mostri che abbiamo dentro, i mostri che abbiamo dentro ci fanno illanguidire di fronte a quella cosa che spudoratamente noi chiamiamo amore. I mostri che abbiamo dentro sono insaziabili e funesti, sono il potere a tutti i costi, ma anche chi lo odia soltanto per invidia. I mostri che abbiamo dentro ci ispirano il grande sogno di un Dio severo e giusto, col mitico bisogno di Allah o di Gesù Cristo. I mostri che abbiamo dentro ci inculcano idee contorte, un gusto sadico e morboso di fronte a immagini di morte. La nostra vita cosciente, la nostra fede nel giusto e nel bello è un equilibrio apparente che è minacciato dai mostri che abbiamo nel nostro cervello. I mostri che abbiamo dentro crescono in tutto il mondo. I mostri che abbiamo dentro ci stanno devastando. I mostri che abbiamo dentro, che nascono in ogni mente, che vivono in ogni terra, inevitabilmente ci portano alla guerra. Non si capisce perché quasi sempre i sogni, proprio quando sono sul punto, come specchi fedeli dell'anima, di svelare al soggetto i propri intendimenti nascosti, si interrompono. Dunque io ero lì, su una specie di zattera, chissà, forse un naufragio. Insomma, ero lì su un relitto di 1 metro per 1,5 metri, e stranamente tranquillo in mezzo all'oceano, galleggio. Boh, ma chissà che vorrà dire. Dunque, per la verità avevo già sognato di essere su una zattera in mezzo all'oceano, però con una dozzina di donne nude, là, insomma, il significato mi sembrava chiarissimo. Invece, adesso sono solo, ho il mio giusto spazio vitale, mi sono organizzato bene. Pesce non manca, ho una discreta riserva d'acqua. Beh, i servizi, beh, come averli in camera. E ho anche un grosso bastone che mi serve da remo. Ma non è un sogno angoscioso. Chissà, forse fuga, ritiro, solitudine. Ah, probabilmente desiderio di sfuggire la vita esterna che ci preme da ogni parte. E si diventa filosofi nei sogni. Oddio, aspetta, cosa vedo? Fine della filosofia. No, oddio, ma non può essere una testa. Forse una boa. Non so per cosa fare il tifo. La boa fa meno compagnia, però è più rassicurante. No, no, ma è qualcosa che si muove. Ma non è possibile che sia un pesce. Mi sembra di vedere degli spruzzi. No, ma è qualcosa che sprofonda, riappare, lotta disperatamente con le onde. Ma è un uomo! È un uomo! È un uomo! È un uomo! È un uomo. Oddio, adesso che faccio? La zattera è monoposto, ne sono sicuro. Se fosse per il pesce, beh, insomma, non ci sarebbe problema, ma la zattera in due non credo proprio che tenga. No, ma non tiene! Ma quello non mi sente. Oddio, oddio, cosa faccio? No, ma come cosa faccio? No, dico, sono sempre stato per l'accoglienza, per l'ospitalità, la fratellanza. No, è tutta una vita che mi batto per questi principi. Certo, però non m'ero mai trovato. Ma quali principi? Questa è la fine. Qua in due non la scampiamo. Quello avanza verso di me, fende le onde. Sarà a 70 metri. Ma che dico, a 50, a 30. Madonna, come fende! Oh. Quasi quasi gli preparo un dentice. Eh già. E se non gli piace il pesce? Se gli piace solo la carne umana? Oddio, mors tua vita mea. Io devo pensare alla mia sopravvivenza. Ma che dico? Non dovrò mica ucciderlo. Oddio, ma che sto dicendo? Io sto delirando, io lo devo salvare. E poi in qualche modo ci arrangeremo fraternamente. Ci staremo vicini, per forza. Non c'è posto. Stretti, stretti, in un metro quadrato, corpo a corpo. Guarda come nuota la bestia. E quello ormai è a 10 metri. Mi fa dei cenni, fa dei gesti, mi saluta, lo schifoso. Ma io lo denuncio. No, oddio, ma che dico? Ma io per lui sono l'unica speranza di sopravvivenza, sono la salvezza. Che posso fare? Forse potrei prendere il bastone ed allungarglielo per aiutarlo a salire. Forse potrei darglielo con violenza sulla testa. E a 5 metri siamo al gran finale del dramma. Il dubbio morale mi corrode, l'interrogativo mi divora. E a 4 metri, e a 3 metri io prendo il bastone. E in quel momento... E in quel momento mi sveglio. Maledizione! Non saprò mai se nel mio intimo prevale il senso umanitario dell'accoglienza o la grande paura della minaccia. Ma non posso restare con questo dubbio. Io devo assolutamente sapere come va a finire questo sogno. Devo saperlo! Devo saperlo! Provo a riaddormentarmi. A volte funziona, dunque mi concentro. Cioè, voglio dire, mi abbandono, ecco, mi rilasso. Sì? Piano piano, sì, ecco. Sì, le onde, il mare, l'oceano, sì, funziona, sì. Un uomo su una zattera, giusto? Sì, ecco, e un altro che invece nuota, sì, ecco che lotta disperatamente, che sprofonda, che riappare, sì, oddio, sento il cuore che mi scoppia, sì, oddio, oddio, oddio, ma sono io quello che nuota, no, ma... Ehi, ci deve essere un errore, eh? Io ero quello sulla zattera e non mi piaceva di più. Sono io che nuoto, no? No, no, ma quale dubbio morale? Ho le idee chiarissime, eh? Io sono per l'accoglienza, ecco. Ancora 5 metri, ecco. 4 metri, sì, tendo le braccia al mio salvatore. Eccomi! Boom! Dio! Che botta! E lì... mi sono svegliato di nuovo. Ecco, non voglio sapere altro. Diciamo che mi basta così. Speriamo solo che non sia un sogno ricorrente. Una nave grande, una nave enorme, una nave che va. Dove va non si sa, non si sa da dove è partita. E sulla nave molti, praticamente tutti. Insomma, via, la nave è la vita. La nave è come una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. E il mare, com'è naturale, immobile, piatto e quasi perfetto, sta lì sempre uguale. La nave ha anche un motore, ed avendo un motore non sa dove va, ma continua ad andare. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse, sono tutti presenti, gli amici e i parenti. Ecco, però manca solo il nonno. Eh sì. Povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento, ognuno ha il suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Eh sì, prima classe, beh, seconda classe, sì, terza classe, poi le donne, sì, i disoccupati... Okay. Gli extracomunitari, sì. Chi? No, no, beh, no, gli zingari no. La nave è una nave di classe, il legno legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Ehi, sì, ci prendiamo un Campari, no? Giusti, con ghiaccio. Sì, un attimo. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare la nave biancheggia, così suggestiva, un fascino strano anche quando beccheggia. Beh, è un fascino che da dentro mi sento poco bene. Vabbè, ma basta distrarsi la mente. Sì, dai. Usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Sì, dai, penso alla mia ragazza. Sì, bello, sì. Bello. Sì, le mie mani che le accarezzano i capelli. Bello. Bello. Poi un po' più giù le spalle. Bello. Poi ancora un po' più giù i bello. Seni. Bello. Bello. Poi ancora un po' più giù. Poi più giù. Bello. E torna tutto su però, eh. Il mare, com'è strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. No, dai, devo pensare a qualcosa di triste, di tristissimo. Meglio. Sì, ma il nonno. Ah, oh, fantastico. Il nonno ha sempre funzionato, dai. Dunque, mi concentro, eh. Mio nonno morì tragicamente nel 36. Come Gozzano. Gli ero così affezionato. Lui era un massone alto, coi baffi, bel portamento, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina. Te la ricordi l'Elvira? Che vita, il nonno. Ogni tanto spariva. Gran bevitore. Beveva. Purtroppo a un certo punto il fegato non ha retto. No. Distrutto. A pezzi. Spopolato. Oddio, ma così mi torna il vomito, nonno, che fai? Mi torna il vomito. Non posso essere io il primo, dai. Devo resistere. Devo resistere. Avanti, avanti, avanti. Si può spingere di più. Insieme nella vita a testa in su. La nave è un po' troppo vitale. Gente si sbianca ma fa resistenza, non vuole star male. Pensate al nonno. Sul ponte che è fatto a tre piani, in terza, in seconda, anche in prima si sentono rantoli strani. Da quelli di prima non me l'aspettavo però. Il mare è sempre più mosso, dai piani di sopra su quelli di sotto si vomita addosso. Ma è una battaglia che cresce. Quelli di prima vomito su quei seconda, quei secondo su quelli di terza. Uno scontro sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce e boccheggia. Un prete sorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi tiene, mi puntello, cerco di vomitare verso l'alto, ma non ci riesco, è chiaro, quelli di sopra non è meglio. Si sporgono per vomitare sugli altri, oddio, è uno scroscio. È da cascata, tutti i filamenti, che schifo. La nave è tutta piena di vomito, che schifo, è tutto un vomito. È tutto un vomito. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più. Insieme nella vita, testa in su. Insieme nella vita, testa in su. Insieme nella vita, testa in su. Sì, sì. Ho capito, la metafora, sì. La nave, il vomito. Però guarda, ti dirò invece, io sono felice. Oddio, tu dirai, la felicità non esiste. Vabbè, ma insomma, io sono uno sereno. Poi, guarda, mi accontento di così poco. Mi basta veramente... Pensate che io non ho nulla. Non posseggo nulla. Come me, del resto. Anch'io non ho nulla. Ma va bene, insomma. Non ho nulla. Mi basta così. Io ho un pelo. Ah, sì? Sì. Lui ha un pelo. E vabbè. Chissà poi cosa se ne fa di un pelo, questo. Lui c'ha un pelo. Lui c'ha un pelo e io... E io non ho niente. Oddio. Che poi, a pensarci bene, forse... Forse un pelo mi farebbe anche comodo. Dai. Oggi come oggi, uno che non ha un pelo... Eh no, devo avere anche un pelo. Bisogna che mi procuri un pelo. Allora, mi procuro un pelo, anch'io, per forza. Mi procuro un pelo. Adesso ho un pelo. Come me? Ho un pelo anch'io adesso. Sì. Ho un pelo. Io ho 10 peli. 10 peli. Ah, sì. E là là. Beato lui, che ha 10 peli. No, per carità, io c'ho il mio pelo. Va bene, mica che mi lamento. Dai, certo. Certo uno con 10 peli è in un'altra posizione. Uno con 10 peli, io praticamente è risolto. Oh, 10 peli. Sono già una peluria. No, vi devo procurare anch'io 10 peli. Assolutamente mi procuro anch'io 10 peli. Ah! Ah! Ho 10 peli anch'io adesso. Peli, sì. Ho 10 peli, viva. 10 peli. Io ho 100 peli. 100 peli? Maledizione, lui ha 100 peli e io ne ho soltanto 10, ma sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Resta il fatto però che lui ha 100 peli. Noi abbiamo 100 peli. Non è possibile. Noi abbiamo 1000 peli. 1000 peli. Noi abbiamo 10.000 peli. 10.000 peli, ma noi non è possibile, anch'io. 100.000 anch'io peli. Devo avere 100 peli. 1.000 peli, sì, devo farlo. Per la mia famiglia, peli. Per i miei figli. 10 devo farlo peli. Per i miei figli, anch'io devo procurarmi più peli, ancora più peli. Anch'io devo andare avanti. Devo andare avanti. Avanti, avanti, avanti. Si può spingere di più. Insieme nella vita te sei su. Insieme nella vita testa in su, oh, oh, oh. Insieme nella vita testa in giù. Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita. Senza schiamazzi e senza suoni, chissà perché non piove mai, quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola, quando ci sono le elezioni. Perfino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. Democrazia. Mi danno in mano un paio di schede. Grazie, grazie, grazie. È una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. E vado verso la cabina, volutamente disinvolto, per non tradire le emozioni. E faccio un segno sul mio segno. Come son giuste le elezioni. è proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede, guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi e me la porto via. Le parole definiscono il mondo. Senza le parole non saremo in grado di parlare di niente. Ma il mondo gira, le parole stanno ferme. Così le parole invecchiano, si logorano, perdono di senso. Ma tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare di niente. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ehi, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, la doccia invece è di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Quasi tutte le canzoni son di destra, se annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno un gusto ancora un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Jeans che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La patata per natura è di sinistra, spappolata nel purè di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. L'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. E dove non si sa, e dove non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella è ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Canticchiar con la chitarra è di sinistra, con il karaoke già è di destra. I collan sono quasi sempre di sinistra, reggicalze più che mai di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ma fare buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata e di sinistra, riservata già un po' più di destra, ma un ficone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Hey, hey, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Basta. La voglia di rompere tutto, le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti e le 128, trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. Che saltava in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. E allora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea, dalle scuole ai quartieri alle fabbriche, per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, era una tua immagine o soltanto una bella intenzione? E allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi, per ripartire da zero e occuparci un momento di noi, affrontare la crisi, parlare, parlare, sfogarsi e guardarsi di dentro per sapere chi sei. C'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta, come se capire la crisi voglia dire che la crisi è risolta. Allora ti torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai, la sola certezza che resta è la tua confusione, il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. E allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti, come reduci, laceri e stanchi, come inutili eroi, con le bende perdute per strada e le fasce sui volti. 40 anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi buttavamo tutto in aria, vittoria, come se tenesse conto del coraggio, la storia. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio, la storia. Come ti senti tu? Non so, dopo la serata di ieri proprio, Si è parlato tanto, eh? Sì. Si è parlato, si è fatto tardi, a lungo, mamma mia, Certe discussioni. Discussioni, vero. Però, necessarie. Fondamentali. Ho una birra, Ah sì, va, una bella birra ghiacciata con questo caldo. Sì, perché c'è un caldo in effetti. Vediamo un po' il giornale, che ci dice. C'è crisi, c'è crisi. Berlusconi rifà soltanto una camera. E beh, giusto, io ho fatto solo bagno e cucina. Quando non hai soldi, del resto. Il Vaticano aggiorna i comandamenti. Diventa non desiderare la escort d'altri. Del resto. Più moderno. Persiste il problema del rientro dei cervelli. I corpi fuggono all'estero. Questa scissione. Totti, doppietta. Al bar Casablanca, seduti all'aperto, una birra gelata. Guardiamo le donne, guardiamo la gente che va in passeggiata. Con aria un po' stanca, camicia slacciata, in mano un maglione. Parliamo di proletariato, di rivoluzione. Al bar Casablanca, con una Gauloise, la Nikon, gli occhiali. E sopra una sedia i titoli rossi nei nostri giornali. Blue jeans coloriti, la barba sporcata da un po' di gelato. Parliamo. Sì. Di rivoluzione. Sì, anche. E di proletariato. Patapatutai. Però sai, l'importante è che l'operaio prenda coscienza. Patapatutai. No, per esempio, i comitati unitari di base. Sì. No, dico, sì. Ma prendi gli operai di Pavia e di Vigevano. Sì. Mica hanno permesso che la politica sindacale realizzasse i suoi obiettivi. Ma no? Non ci mancherebbe altro. Ha reagito. Hanno preso l'iniziativa. Ma certo. L'hanno presa, sì. Con questa storia che dobbiamo essere noi alla testa degli operai. Noi. Ma dico. Ma noi la testa degli operai. Ma noi. Ma sono loro. Sono loro che devono fare. Sono loro che devono andare. Ma sai, noi che possiamo fare? Noi qui. Al bar Casablanca, con una Gauloise, la Nikon, gli occhiali. E sopra una sedia i titoli rossi dei nostri giornali. Blue jeans coloriti, la barba sporcata da un po' di gelato. Parliamo. Ma sì, anche di rivoluzione. Sì. E poi? Di che parlavamo? di proletariato. Di proletariato. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero molto magrolino, avevo qualche allucinazione. E quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di noce, ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce. Ecco, però, dopo un po' che li guardavo, non so, mi si trasformavano. Sai, come degli attori, attori consumati, no? Ti dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì come una comparsa che assistevo alla commedia, anzi, alla farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, oh, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone, una cosa dunque faceva. I borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi e più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi sono tutti. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore. Ah sì, Malipiero! Sì, sì. Certo. Bravissima persona che parlava in latino ore e ore. Sì, ecco, però anche lui, dopo un po' che lo guardavo, non so, mi si trasformava, sai. La bocca si chiudeva stretta, il colore scompariva, lo sguardo si bloccava, fermo, immobile, di pietra. Sì, tutto di pietra. Io già vedevo il suo busto su un'aiuola con su scritto «Professor Malipiero, una vita per la scuola». E chissà perché, anche durante questa allucinazione, oh, mi tornava sempre in mente quella stessa stranissima canzone, quella che faceva... I borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi e più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi sono tutti, adesso che sono grande, ringrazio il Signore. Mi è passato ogni disturbo senza bisogno neanche del dottore. No, no, ora sto benissimo. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Ma sai, si cresce. Deve essere quello. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Ecco, sì, però invece mio figlio... Ecco, mio figlio mi preoccupa un po'. Beh, innanzitutto lui è così magro. E poi, non so, ha delle strane allucinazioni. A volte viene, mi guarda e canta una canzone assurda, una canzone che io non ho mai sentito. Una cosa che fa... I borghesi sono tutti dei porci. Ma è un deficiente. Più sono grassi, più sono lerci. Poi fa, aspetta, più sono lerci... Più c'hanno i milioni, i borghesi sono tutti. Come? No. No, no, non è vero. Io non ho niente da rimproverarmi, no. Non mi sembra di aver fatto niente di male. La mia vita. Ma la mia vita è una vita normale, non ho mai rubato neanche in casa da piccolo, non ho mai ammazzato nessuno, figuriamoci. Vabbè sì, qualche volta qualche atto impuro, ma normale, no? No, ma un lavoro, una famiglia, pago le tasse, non mi sembra di avere delle colpe. figuratevi, non vado neanche a caccia. Come? Ah, voi parlavate di prima. Vabbè, ma prima... Come mi comportavo prima? Mi sono comportato come tutti prima, sì. Ah, volete sapere come mi vestivo prima? Come mi vestivo? Ma forse più o meno come adesso, non so. Oddio. Forse non proprio come adesso, magari... Sì, magari i jeans, un maglione... L'eschimo, sì. Perché? Era comodo. Come? Ah, volete sapere che canzoni cantavo? Ma che canzoni cantavo? Sì, sì, anche canzoni popolari, sì, sì, sì. Sì, ciao, bella ciao. Ah, devo parlare più forte. Sì, ciao, bella ciao, sì, l'ho cantata, sì. Ed anche l'internazionale, ecco. Però in coro, eh. Sì, sì, lo ammetto, sì, quello sì, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anche io, gli Inti Illimani, sì. Però non ho pianto, eh. Come? Volete sapere se in caso ho delle foto? Vabbè, ma certo che ho delle foto, tutti hanno le foto, sì, mia moglie, la mia famiglia. Voi intendevate manifesti? Manifesti? Manifesti non lo so, forse... Ah, forse uno piccolino, sì, sì. Sì, Che Guevara. Vabbè, ma che è un processo questo? No, no, no, quello no, no, no, quello no, guarda, no, il pugno no, il pugno io non l'ho mai fatto, no, no, no, mai, mai. Oddio, magari una volta, un pugnetto, insomma, uno così, ha tirato fuori, poi subito dentro. Come? Ah, volete sapere se ero comunista? Bene, mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? Ah no, vabbè, ma è giusto, eh. Parliamone, no? Perché adesso fanno tutti finta di niente, non ne parla più nessuno. Invece, forse certe cose è anche giusto chiarirle, eh? Volete sapere se ero comunista? Ecco, ma in che senso? No, perché... No, voglio dire... qualcuno era comunista... perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. La mamma no. Qualcuno era comunista perché aveva visto la Russia come una promessa, la Cina come una poesia e il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, la letteratura lo esigeva, il teatro, la cultura, insomma, lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché prima, ecco, era fascista. Qualcuno era comunista perché glielo avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuro. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato, la lotta di classe, magari è facile. qualcuno era comunista perché via Marx, via Lenin, via Mao Zedong. E vacci a ragionare con quelli. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Oh, e dove sta? Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché avevamo il peggior partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi, solo in Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Brescia, Piazza Fontana, la stazione di Bologna, Ustica, l'Italicus, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista. E forse invece era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché era convinto di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché sentiva la spinta verso qualcosa di nuovo ed era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, forse era solo uno slancio, era solo il desiderio di cambiare veramente le cose, di cambiare la vita. Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio era come più di se stesso, era come due persone in una. Da un lato la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No. No, no, nessun rimpianto, no. Sì, forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, sì, come dei gabbiani ipotetici. Già. Già. Ma ora? Anche adesso ci si sente come in due. Da un lato l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana e dall'altro il gabbiano senza più neanche l'intenzione del volo, perché oramai il sogno si è rattrappito. Due miserie in un corpo solo. Quando lo vedi sulle facce degli altri, quando li osservi in quel loro appiattimento, in un salotto, in un bar, con un Campari soda, così assuefatti dalla violenza dolce della moda. Quando lo senti sugli altri e ti senti diverso, e credi di non essere sommerso, non è ancora il momento di soffrire, puoi ridere di loro, ti serve per capire, sono persone piatte, molli, stanche. Ma quando lo vedi anche sulla tua maglietta, sulle scarpe da tennis, sui blue jeans da 14 once, su come parli, su cosa canti, come ti vesti, sui tuoi bisogni, sulle tue scelte, sui tuoi gusti, allora diventi anche tu arrendevole fiacco, allora ti piaci un po' meno e non sai perché, non riesci nemmeno a trovare abbastanza distacco per ridere di te, per ridere di te. Lo vedi sulle facce degli altri, quando li osservi in quel loro appiattimento, gli stessi atteggiamenti, la stessa ironia e le loro battute un po' da trattoria, e le mani curate, le camicie pulite, bianche. Quando lo vedi anche sulla tua maglietta, sulle scarpe da tennis, sui blue jeans da 14 once, su quel giaccone americano che ho comprato con pochi soldi al mercatino dell'usato, allora ti viene il disgusto, la tua stravaganza, allora diventa una moda ogni gesto che fai, non si riesce nemmeno ad avere abbastanza coscienza per piangere di noi, per piangere di noi, di noi così ribelli, così devoti, di noi così folli, così massificati, di noi così avanti e così impotenti, coi capelli un po' lunghi e le nostre barbe da impegnati, di questa nostra assurda mancanza di rigore, di una mollezza sorda che non ti fa reagire, di noi che non sappiamo cosa sia la nostra malattia, e forse non abbiamo ancora fatto un gemito, ma la paura comincia a salire dagli intestini come il vomito. Di noi così creativi, così corrotti, di noi così vitali, così assuefatti, ci aggrappiamo ad un gesto che ci sembra di rottura, con l'illusione del pretesto di scegliere ancora. Di noi così originali e spappolati, creiamo saltando liberi come pidocchi, coi nostri gusti schifosi accumulati fra la testa e gli occhi. Ormai sei soggetto a una forza che ti è sconosciuta, ormai sei libero e schiavo, ormai sei coinvolto. E di colpo ti viene il sospetto che in tutta la vita non hai mai scelto, non hai mai scelto, non hai mai scelto, non hai mai scelto. Quando lo vedi anche sulla tua maglietta, sulle scarpe da tennis, sui blue jeans da 14 once, quando lo vedi anche, quando lo vedi anche, quando lo vedi anche. Amore. Beh, oh, che vuoi fare? Vedi la bella. E ci hanno insegnato tutto gli americani a noi. È incredibile. Ci hanno insegnato tutto gli americani a noi. No, ma dico, ma che saremmo noi senza gli americani? No, dico, proprio europei. Vecchi, sempre pesanti, pensierosi, con gli abiti grigi, i taxi ancora neri, che noia. E invece gli americani, questo popolo così pieno di spunti nuovi, così generosi, buoni, giusti. Che loro poi sono giusti anche quando gli capita di fare una guerra, che diciamo che gli capita spesso, insomma. Non è che loro la fanno, diciamo, perché gli conviene a loro. È che loro... c'è sempre qualche posto nel mondo dove non c'è giustizia o libertà. E loro arrivano, pum, e te la portano. Perché in fondo sono questo gli americani, sono dei portatori. Loro sono dei portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non gli fa niente, però te l'attaccano. Così è più forte di loro, per loro la guerra... è una missione, loro vanno lì per regalare, non vanno per prendere, vanno per dare. E c'è sempre un premio se perdi la guerra, non so, complimenti, lei ha vinto 5 McDonald's, grazie. In omaggio 3 Blockbuster, ah vedi che buoni. E niente, sai, un tempo, voglio dire, gli invasori, quando vincevano la guerra, oh, ma si prendevano tutto, del popolo vinto, le donne, le terre, la religione, gli usi, i costumi, e loro... oh, loro non ci riescono. È incredibile. Sai, Seconda Guerra Mondiale, per esempio, tu conquisti l'Europa. Sei lì, trovi una lampada Liberty. Ora, il saccheggio in guerra è ammesso. Che fai? La fai tua. Loro no. Loro civilizzano. È una passione. E quindi te ne mettono lì una nuova. Al neon, bianca, orrenda. E l'Europa, allora l'Europa con le sue lucine soffuse, il valzer, i violini, i caffè, e niente, all'improvviso invece luci, neon, ponti, autostrade, grattacieli, chewing gum. Oddio, chewing gum. Non c'è popolo più stupido, guarda, degli americani. Strangers in the night. Perché poi in fondo gli americani, no, sono un popolo di giovanotti, no? Nel senso, queste scarpe da ginnastica alte 3 metri, loro, non so, la cultura loro, oh, non li ha mai intaccati, ma volutamente, perché forse fanno bene a dubitare, no, della nostra cultura un po' seria, sai, Leonardo, Shakespeare, Voltaire, non so, Schopenhauer, è oscuro. E invece loro creano con molta più disinvoltura, loro creano con più naturalezza, come ci vuole oggi, loro creano con niente, così, loro creare, inventare come fisiologico, loro creano come andare al cesso. Oh, e infatti creano anche delle cagate. Vai,